Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, ne abbiamo parlato numerose volte, ne abbiamo parlato anche con l'allora sindaco Massimo Cacciari, che da sempre era molto contrario al MOSE, ma in questo caso, lo dico subito, non è il tema, non è l'utilità o meno del MOSE. Chi vi parla è per metà veneziano e ha le sue opinioni sul MOSE, però sono del tutto irrilevanti, nel senso che l'opera ormai ha l'85% della sua di avanzamento come opera, per cui manca pochissimo per finirla. Chiunque di voi attraversasse la laguna può vedere i cantieri, può vedere in maniera molto chiara, e le paratie famose dell'opera, iniziate le costruzioni nel 2003, dovrebbe essere completata nel 2016. Dicevo, non è in discussione in questo caso l'utilità dell'opera, anche perché ormai fatta è e ce la teniamo, né i 5 miliardi che a questo punto è costata. Lo dico anche perché, avete capito il tema, il PM oggi, o meglio la Procura della Repubblica, nella conferenza stampa ha definito il MOSE un fiore all'occhiello per il Paese e ha aggiunto che l'opera andrà avanti nonostante quanto accaduto e che è un dovere per i cittadini portare a termine. Perché lo diciamo? Beh, perché insomma oggi, come i nostri GR vi hanno ampiamente già raccontato, è successo di tutto. Sono stati arrestati il sindaco di Venezia del PD, Giorgio Orsoni, ai domiciliari, l'assessore regionale Chisso e altre 33 persone, tra cui due ex presidenti del magistrato alle acque. Le ipotesi sono di reati a vario titolo, corruzione, concussione e riciclaggio. L'inchiesta riguarda presunti fondi neri accumulati dagli allora vertici di una delle aziende operanti nella costruzione del sistema per appunto difendere Venezia dall'acqua alta. E c'è anche una richiesta di arresto per Giancarlo Galan, ex governatore del Veneto, ex ministro con Berlusconi e attualmente deputato, quindi la richiesta poi dovrà essere passata al voto parlamentare. Ancora, il sindaco di Venezia Orsoni è accusato di finanziamento illecito relativo alla sua campagna elettorale per le comunali del 2010. Sono 25 le persone in carcere, 10 ai domiciliari. La Guardia di Finanza ha compiuto anche un centinaio di perquisizioni e sequestrato beni per circa 40 milioni di euro. L'inchiesta era in corso dal 2008 e il contatto, diciamo, con la politica nella terza fase, che sarebbe, da quello che capiamo, partita dall'individuazione di triangolazioni di denaro attraverso false fatture maggiorate per 25 milioni di euro e che avrebbe portato alla luce un sistema ben radicato di illeciti. Insomma, in sostanza, la vecchia sovrafatturazione, si fanno pagare, si staccano fatture più alte del dovuto, si intascano i soldi, tanto paga Pantalone, visto che siamo a Venezia possiamo dirlo, ossia i cittadini italiani, a cui i contribuenti italiani che hanno pagato l'opera per 5 miliardi di euro. Quando i soldi non sono tuoi, è chiaro che questa è la tecnica. Poi vedremo nel corso dell'approfondimento anche quali sono le ipotesi di sovrafatturazione. Devo dire la verità, noi erano giunte voci, ma non facciamo un programma sulle voci di sovrafatturazione anche in quelle che erano le materie prime per il cemento, per il calcestruzzo utilizzato per il MOSE, e quindi la materia prima viene sovrafatturata, però erano tutte voci che si rincorrevano in laguna da anni. Oggi mi sembra che i PM abbiano tramutato le voci in arresti e domiciliari. Ancora indagato anche l'ex consigliere del ministro Tremonti, e mi riferisco a Marco Milanese, ex parlamentare del PDL, indagato sempre dalla Procura di Venezia. Secondo quanto ci legge nel provvedimento, i PM hanno poi revocato la richiesta di custodia cautelare nei confronti di Milanese, che al fine di influire sulla concessione di finanziamenti del MOSE avrebbe ricevuto dal presidente del consorzio Venezia Nuova la somma di 500.000 euro, e di questo parleremo nel corso del programma, un programma in cui Ahimè, dovremmo anche parlare dell'allarme, del grido d'allarme lanciato oggi da Confindustria nel presentare il rapporto del Centro Studi di Confindustria. Forse la notizia che resta maggiormente impressa è come l'Italia sia stata sorpassata anche dal Brasile nella classifica dei paesi produttori, quindi di chi produce manifattura, scivolando dal settimo all'ottavo posto a livello mondiale. Tra il 2000 e il 2013 la produzione mondiale di beni e manufatti è cresciuta del 36%, in Italia, lo sappiamo, la produzione industriale si è ridotta del 25%. Al di là delle percentuali, questo vuol dire 120.000 fabbriche in meno e oltre 1 milione di posti di lavoro persi. Se questa non è una guerra condotta con altri mezzi, diciamo, non quelli militari, ditemi voi che cos'è. Tra l'altro la Confindustria parla anche di demeriti domestici, ossia di colpe anche nostre, non solo, diciamo, della congiuntura internazionale e di un'austerità troppo austera, diciamo così, in Europa. Il quadro appunto è impietoso. Siamo ancora, lo ricordiamo più volte, del 25% sotto i livelli produttivi del 2007-2008, il che vuol dire che è come se fosse scomparsa una fabbrica su quattro. Non è così, perché in realtà è una contrazione della produzione, ma un quarto in meno, questo vuol dire. Però il presidente di Confindustria dice: attenzione, non siamo vittime di un destino crudele e ineluttabile, siamo noi che possiamo e dobbiamo costruire il nostro futuro. Serve un salto di mentalità, però si stanno creando le condizioni per una tale svolta. Di questo parleremo subito in apertura. Poi, come sempre, la borsa che cede uno 0,14% oggi Milano, invariata Francoforte, invariata in questo momento anche Parigi, invariata l'America, Londra meno 0,40%, da noi cede più della media World Duty Free meno 2,5%, Uniposai meno 2, Fiat meno 1,90, Jux meno 1,40, Autogrill meno 1,30, Buzzi meno 1% come CNH Industrial ed Eni e Ferragamo e Toz, Generali meno 0,90, Exor meno 0,80 come UbiBanca e Gtech. Fronte opposto, Finmeccanica più 3,40, Telecom Italia più 2,30, Saipem più 2,20, Azimut più 1,90, Enel più 0,70 come Mediobanca. Di questo parleremo, ma anche del sistema produttivo e della Fiat. Ieri sono arrivati in finale di programma i dati sulle matricolazioni e abbiamo notato un calo delle matricolazioni complessive, ma un calo ancora più forte di FCA, quindi il gruppo Fiat Chrysler Automobiles. Ne parleremo con chi ha presentato un libro, Made in Torino, punto di domanda, Fiat Chrysler e il futuro dell'industria. Sarà l'occasione anche per parlare di un settore vicino, ma non simile. Mi riferisco al settore dell'acciaio. C'è infatti in corso un importante convegno, osservatorio sull'andamento del settore dell'acciaio, travolto in questi giorni dalla crisi di Piombino, ma da tutta l'incertezza sul destino dell'Ilva. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, le altre notizie in breve. Allora, mi chiedono cosa c'entra la guerra. Sto dicendo che i risultati di quello che è successo assomigliano fortemente a una guerra condotta con altri mezzi. Chi è il nemico? Questa è una bella domanda. Il nemico siamo noi stessi, in alcuni casi, che non abbiamo saputo fare le riforme per ammodernare il paese in 20 anni, che continuiamo ad avere un sistema che definire poco attraente è quasi un eufemismo per quello che riguarda la giustizia civile, la certezza del diritto anche amministrativo e la velocità della giustizia, la burocrazia asfissiante, una pressione fiscale che anche per le imprese non conosce quasi uguali nel resto d'Europa, a fronte poi di una pubblica amministrazione che non è un modello, diciamo, un modello mondiale. Ecco, queste sono alcune delle riforme che non abbiamo fatto, ed ecco perché siamo in guerra con noi stessi, e lo dimostra molto bene quello che sta capitando a livello politico nel paese. C'è una rivoluzione in atto, piaccia o non piaccia, comunque uno la possa pensare, è in atto. E poi c'è stata anche una guerra all'interno dell'Europa, nel senso che altre aree geoeconomiche si sono mosse in maniera diversa. Noi invece abbiamo dovuto fronteggiare un'Europa tutta orientata solo su un'austerità che ha avuto un effetto ciclico, cioè ha aumentato la recessione in atto. Ne Nel frattempo gli Stati Uniti, visto che parlavamo di chi ha avuto altre politiche espansive a tutela degli occupati, l'obiettivo degli Stati Uniti, lo ricordiamo molte volte, è la disoccupazione, non gliene frega nulla dell'inflazione o del deficit agli americani in questo momento, e hanno ragione a mio avviso. Dicevo, gli Stati Uniti hanno oggi ottenuto un nuovo record nel deficit commerciale a 47,2 miliardi di dollari. Perché questo? Perché le importazioni aumentano dell'1,2% e l'export cala dello 0,2%. Dimostrazione che quando poi l'America riparte, anche nei consumi, torna a importare e a poco serve un dollaro debole, debolissimo nei confronti dell'euro, perché quando è un'industria poco competitiva la valuta ti aiuta un po', ma non risolve tutti i problemi. La vicenda BNP Paribas, addirittura si è mosso il presidente francese François Hollande, ha scritto una lettera a Barack Obama in difesa di BNP Paribas, su cui pesa la minaccia di una pesante sanzione da parte delle autorità americane per violazione dell'embargo contro Cuba, Iran e Sudan. Secondo quanto riporta infatti il Wall Street Journal, BNP Paribas rischia una multa da 10 miliardi di dollari e soprattutto di vedere sospesa, almeno temporaneamente, la sua licenza di operare negli Stati Uniti. Il governo francese aveva protestato ufficialmente già nei giorni scorsi e comunque l'agenzia di rating Standard & Poor's ha messo sotto osservazione il voto a BNP Paribas, viste le implicazioni negative che potrebbero arrivare dalle possibili sanzioni. Nella corsa, nel toto nomine che riguarda l'Europa, non so quanto interessi la nomina, forse più le azioni dell'Europa. Ma dicevo, dopo le indiscrezioni per cui Angela Merkel avrebbe sondato François Hollande per chiedergli se fosse disposto a sostenere la candidatura di Christine Lagarde, la capo del Fondo Monetario Internazionale, come Presidente della Commissione Europea, oggi Angela Merkel ha detto mi impegno per Juncker con i partner europei, non possiamo però essere indifferenti alle posizioni della Gran Bretagna, che ha detto se fate Juncker noi facciamo un referendum e usciamo dall'Europa. A me questo sembra una trombatura di Juncker, però detta così vedremo. E poi ha aggiunto Angela Merkel, la Gran Bretagna è un partner scomodo dell'Unione Europea, ha avuto tanti vantaggi dall'Unione Europea ma ha anche dato tanto, occorre però tutelare gli interessi comuni tra Gran Bretagna e Germania in Europa. Vabbè, mi sembra molto piratesca come dichiarazione, dopodiché non capisco tutta questa insistenza su Juncker, che rappresenta solo se stesso, nel senso che rappresentando il Lussemburgo rappresenta se stesso. Poi già il fatto che lo spinga la Germania, posso dire tutta, forse è un buon motivo per non votarlo. Andiamo avanti, il rinvio è arrivato l'ok da parte delle commissioni bilancio e finanze del Senato al rinvio del pagamento della TASI al 16 ottobre nei comuni che ancora non hanno deliberato l'aliquota. Le delibere però devono essere pubblicate entro il 18 settembre e poi i comuni devono inviare queste delibere esclusivamente in via telematica entro il 10 settembre. Ancora, il Ministero dell'Interno anticiperà entro il 21 giugno ai comuni ritardatari il 50% dei fondi che sarebbero dovuti arrivare dalla TASI su un'aliquota base, no? A valere sul Fondo di Solidarietà Comunale. Per quello che riguarda invece la Farnesina, il Ministero degli Esteri, è arrivata oggi una mini riforma, perché un emendamento approvato al disegno di legge IRPEF prevede che sia svolta attività per la promozione dell'Italia anche sviluppando contatti di natura economico-commerciale con un fondo di 150 milioni per il 2015 finanziato dal taglio degli oneri di rappresentanza e dalle indennità di servizio. Non voglio tornare su quanto guadagnino in più rispetto ai loro corrispettivi gli ambasciatori italiani a Parigi, a Londra, rispetto agli stessi ambasciatori tedeschi a Parigi, a Londra, ne abbiamo già parlato. Dopodiché, secondo me, mettere i soldi levandoli dagli oneri di rappresentanza e dall'indennità di servizio, perché poi non si sa come vengono utilizzati, in molti casi bene, in altri casi meno bene, per promuovere Made in Italy, mi sembra un'operazione corretta, anche se il fondo è di soli 150 milioni. L'importante è che però si coordinino con le Camere di Commercio italiane all'estero, con il nuovo ICE, insomma con tutti gli altri soggetti che devono promuovere il nostro Made in Italy. Che dovrebbero promuovere il nostro Made in Italy. Allora, niente allargamento invece del bonus fiscale alle famiglie monoreddito con figli, e questo è un vero peccato, per dirla, perché abbiamo detto più volte che il problema degli 80 euro era anche che due sostanzialmente contribuenti con, poniamo, un figlio, ambedue guadagnano 23, 24, 25 mila euro, hanno il massimo del beneficio. Mentre se tu hai un capofamiglia o la moglie che guadagna, poniamo, 35.000 euro o anche 40.000 e non lavora l'altro coniuge e hai sempre un figlio, non becchi niente. Ecco perché si diceva attenzione, bisognerebbe allargare il bonus fiscale alle famiglie monoreddito con figli. L'intervento invece viene rinviato alla legge di stabilità e nel decreto IRPEF verrà specificato che in quella sede si dovrà anche presentare particolare attenzione ai carichi familiari, ma detto questo per ora non c'è, ed è un vero peccato per due motivi. Intanto perché obiettivamente, immaginate, lo dico col massimo rispetto, ma due coniugi senza figli a 24.000 euro hanno un vantaggio, perché ce l'hanno, sono circa a regime 800 euro a testa all'anno, un po' di meno secondo alcuni calcoli. Comunque, mentre una famiglia con figli, con un unico lavoratore che magari sta sui 40.000 euro lordi l'anno, cioè non è che festeggi a caviare e champagne, non becca nulla. In un periodo in cui abbiamo un record di disoccupazione giovanile, record di disoccupazione femminile, beh, insomma, il caso del monoreddito non è solo una scelta di vita, probabilmente magari l'altro coniuge è stato licenziato, ha perso lavoro, non gli hanno rinnovato il contratto, per cui era quanto mai importante. La senatrice del PD e relatrice del decreto IRPEF, Maria Cecilia Guerra, oggi ha spiegato a Effetto Giorno dal nostro Simone Spezia che l'allargamento del bonus di 80 euro alle famiglie monoreddito con figli è saltato perché in questa prima fase l'obiettivo del governo era di intervenire direttamente sul cuneo fiscale e sul lavoro dipendente. Scusatemi, la senatrice ha comunque ribadito altri obiettivi equitativi che verranno sistemati con la delega fiscale. Non è saltato perché non è mai stato introdotto, era una proposta del nuovo centrodestra di allargare il bonus in essere anche a queste figure. Allora, diciamo che la risposta che era sempre stata data fin dall'inizio a questo tipo di idee di allargamento è che gli obiettivi che si vogliono perseguire sono ampiamente condivisi dalla maggioranza. Il bonus è nato con un obiettivo molto preciso e anche circoscritto, cioè quello di essere un intervento di riduzione del cuneo fiscale, quindi intervenire specificamente sul lavoro dipendente e senza considerare altri obiettivi equitativi che possono essere molto importanti e che verranno invece affrontati in modo sistematico con la delega fiscale da un lato e con la legge di stabilità dall'altro. Quel che è successo all'economia italiana negli ultimi 20 anni ha radici antiche nei mali del nostro paese. La stessa performance durante la crisi è dovuta a dei meriti soprattutto nostri. Non siamo vittime di un destino crudele e ineluttabile. Siamo noi che possiamo e dobbiamo costruire il nostro futuro. Occorre però un salto di mentalità, una svolta chiara e decisa. E mi pare che si stanno creando le condizioni per una tale svolta. Un cambio di mentalità a 180 gradi, che riguardi anche la finanza, se, come ha detto il governatore della Banca d'Italia, non ci possono essere investimenti senza credito. Così. così oggi il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, intervenuto nella presentazione dei dati sugli scenari industriali elaborati dal Centro Studi Confindustria, intitolato "In Italia la manifattura si restringe sempre". Squinzi, i dati in parte già anticipati, ha detto: attenzione, la mappa delle perdite di posti di lavoro di unità produttive è pesante, ma ahimè assolutamente realistica. La mappa delle perdite dei posti di lavoro e di unità produttive è, come abbiamo visto, è pesante, ma purtroppo assolutamente realistica. Ne hanno sofferto molto sia le regioni del nord di più antica industrializzazione, forse con qualche eccezione, abbiamo visto quella dell'Emilia-Romagna, sia alcune del centro come la Toscana e anche le più dinamiche del sud come la Puglia. E da questo bilancio negativo io trago ancora più forte la convinzione di rivolgere tutti i nostri sforzi al rilancio del settore manifatturiero. Senza un manifatturiero in salute e con un ruolo centrale nei processi dell'economia non ci può essere crescita, e senza crescita è impossibile generare lavoro. Il lavoro deve essere la nostra priorità assoluta, una priorità che deve orientare tutte le nostre azioni, le nostre scelte, le nostre decisioni a livello di imprese, di Confindustria, di governo nazionale e di istituzioni europee. Questo quando il Centro Studi Confindustria ha annunciato oggi, sono dati elaborati, l'Italia è scivolata dal 7° all'8° posto nella graduatoria dei paesi produttori, e grazie, si fa per dire, a demeriti anche domestici, sorpassata dal Brasile. La cosa che a me personalmente più ha impressionato e che andrebbe capita, a mio avviso, da tutti, è che mentre noi ci stiamo leccando le ferite ormai da 6 anni, il resto del mondo, superato lo shock 2008-2009, ha ripreso a correre. La Confindustria stima dal 2000 al 2013 i volumi mondiali di produzione industriale sono aumentati del 36%, i nostri hanno fatto meno 25%. E quando tu vai indietro e gli altri vanno avanti, non vai indietro solo di un meno 25%, in realtà, perché il delta è molto più forte. E dice il rapporto: l'Italia fa peggio proprio dove gli altri vanno meglio. 120.000 fabbriche perse. Da questa erosione del manifatturiero ne è conseguita una perdita di 1 milione di posti di lavoro, 1.160.000 posti di lavoro dal 2001 al 2013. Luca Paolazzi è il direttore del Centro Studi Confindustria. Buonasera Luca. Buonasera dal corvo in persona. Vuoi subito il gufo? No, perché no. Ti diamo il gufo su, perché noi amiamo più il gufo che il corvo. Però allora, prima domanda molto semplice: questo più 36% a fronte di un meno 25%, voi avete fatto una stima dal 2000 al 2013, dite anche facciamo peggio dove gli altri vanno meglio, me la puoi articolare questa? Sì, il mondo si è sviluppato di più in alcuni settori, faccio rapidamente l'elenco di questi settori: sono l'industria elettronica ha fatto un più 122,7%, i computer macchinari per ufficio ha fatto più 81,7%, i mezzi di trasporto diversi dall'automotive, quindi diciamo aerei, treni, navi, ha fatto più 72,4%. Giusto per citare i top 3, noi in questi settori siamo andati peggio. Per noi, diciamo, sono l'industria elettronica ha fatto meno 56,1%, i computer macchinari per ufficio hanno fatto meno 99,3%, sono praticamente spariti. Viceversa, andiamo bene dove il mondo non va così bene. L'abbigliamento è il terzo settore per performance. Sesto settore per performance italiano, segno meno ovviamente, perché se la media fa meno 25 è per andare un po' meno peggio, fai meno 18, nel mondo questo è il quart'ultimo posto con un più 17%. Va detto una cosa, che questi dati sono appunto a prezzi costanti. Per le imprese non contano solo i volumi, contano anche i fatturati, cioè quindi in realtà i prezzi correnti. Le imprese italiane, pur operando in questi settori, si sono spostate verso più alto di gamma, quindi sono riuscite ad affermare a farsi pagare prezzi più elevati per un valore aggiunto maggiore. Al contrario, come sappiamo, tutti i prezzi dell'elettronica, dei computer sono in discesa libera, perché le nuove tecnologie fanno sì che c'è un miglioramento quantitativo, qualitativo. Certo, a parità di prezzo hai più valore aggiunto, o viceversa paghi meno per il valore aggiunto di prima. Una cosa non ho capito, perché proprio ti ho perso: qual è il settore italiano che si è quasi azzerato, dicevi? La computer e macchine per ufficio, computer meno 99,3%. Meno 99? Sì, esattamente. Ma che è successo? Chiedo, veramente faccio la domanda da ignorante, cioè meno 99 è scomparso un settore. Sì, esattamente, quello che facevamo non c'è più, quello che ancora facevamo nel 2000 non c'è più. Quindi tu stai dicendo, attenzione, che noi siamo cresciuti e abbiamo ottenuto meglio in settori però che sono cresciuti poco a livello mondiale. E siamo invece calati laddove quei settori esplodevano a livello mondiale, e citavi appunto l'elettronica. Allora, noi sappiamo però che su alcuni settori difficilmente potremmo rientrare, poi vediamo, magari entreremo in una quarta fase, quinta fase, penso all'elettronica da consumo, penso a tutta la parte dell'IT. Però tu ricordavi anche giustamente che nel frattempo la nostra impresa, parte della nostra impresa, quella più capace di esportare, si è spostata sui livelli ad alto valore, sulla fascia alta, diciamo, dove magari fai meno volumi ma guadagni di più, per dirlo in maniera un po' brutale, e anche perché la concorrenza di Cina, India, Filippine, Marocco, Turchia, Indonesia, insomma, lì ha pesato parecchio. Ecco, vorrei capire se, come lo chiamano gli economisti, il trade-off è alla pari, cioè produciamo un po' di meno ma lo vendiamo più presto. Ovviamente no, perché altrimenti il nostro PIL non sarebbe così tanto. Ovviamente no, è stato un modo per difendere le posizioni competitive, posizioni di mercato in un contesto competitivo a noi sfavorevole, perché il nostro costo del lavoro per unità prodotto è salito molto, è continuato a crescere anche durante la crisi, ha fatto più 20%, e abbiamo sofferto un credit crunch micidiale, abbiamo visto un'erosione dei margini delle imprese che si è sostanzialmente dimezzato, mentre in altri paesi europei come la Germania, la Spagna è molto salito, male come noi va la Francia, e infatti non è messa molto bene dal punto di vista economico e industriale. Quindi diciamo che in realtà non è alla pari, affatto non è alla pari, purtroppo, è stato uno dei modi in cui per contenere il danno, diciamo. Esattamente. Anche perché appunto noi commentiamo spesso, perché è una delle poche notizie favorevoli che abbiamo in questi anni, l'andamento dell'export per valore, abbiamo detto più volte che le nostre imprese si sono ben posizionate, ma non basta questo né a fronteggiare il crollo dei consumi interni, né, come tu spiegavi bene, che è un altro fattore di crisi, né ripianare o riequilibrare il calo complessivo dei volumi, cioè del numero di pezzi venduti, prodotti e venduti anche all'estero. Dopo le informazioni meteo, Luca, ti chiederò ancora un paio di cose, perché vorrei capire però quanta parte della nostra industria manca all'appello. Mi spiego, noi sappiamo che c'è una parte del nostro sistema di impresa che si è già posizionato in quei paesi, in tantissimi settori, li raccontiamo, ormai l'export pesa dal 60 addirittura al 90%, e poi però vorrei capire che cosa manca, anche per fare un po' di autocritica. Noi la Germania e l'austerità europea l'abbiamo criticata, penso, quasi a livello maniacale, però anche i compiti in casa vanno fatti. Cosa manca all'altro pezzo di manifattura, in primo luogo italiana? E poi le previsioni, se già avete qualcosa, sull'andamento del PIL nel secondo trimestre. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, meteo, pubblicità e poi di nuovo in diretta. A 7:42 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Luca Paolazzi, due domande che mi restavano, ne avrei molte altre ma il tempo stringe. La prima, al di là della gestione a mio avviso disastrosa dell'Europa, che cosa devono fare le nostre imprese, quelle che non sono riuscite a posizionarsi? Mi sembra che siano due terzi, un terzo il rapporto, cioè un terzo che si è posizionato sui mercati esteri, cioè ha diversificato, come si direbbe in gergo finanziario, non dipende troppo dai consumi italiani ed europei, che resteranno deboli a lungo. E cosa manca alle altre? Diciamo che le strategie adottate da questo Un terzo è una cifra, una quota credo un po' abbondante. No, volevo essere ottimista, ne ho da tanto. Ecco, però, sì. Però diciamo le strategie adottate da queste imprese consistono fondamentalmente nel concentrarsi sulle conoscenze proprietarie, le core competence, come vengono chiamate tecnicamente, sono quelle diciamo che danno la loro competitività, cioè definiscono la loro competitività di stare sul mercato in termini appunto di saperi. Questi saperi riguardano sia l'innovazione, sia diciamo i processi, sia i prodotti, ma anche diciamo le reti di vendita, anche altri aspetti dell'organizzazione aziendale. L'innovazione portata avanti da queste imprese è a 360 gradi, non riguarda solo alcuni aspetti. Quindi questi modelli possono essere emulati anche da imprese piccole e non necessariamente bisogna essere grandi multinazionali. Quello che emerge dai scenari industriali che abbiamo presentato oggi però è un cambiamento anche nel contesto in cui operano le imprese. Più che diciamo esportare, bisogna cominciare a essere presenti nei mercati stranieri, soprattutto quelli che crescono in più dell'area asiatica, perché c'è una, non dico una riduzione della globalizzazione, ma un aumento diciamo della regionalizzazione degli scambi in quell'area. Questo significa che devi essere lì presente fisicamente anche produttivamente, esattamente, quindi diventare fondamentalmente multinazionale. Ovvio che per fare questo bisogna avere spalle grandi, un po' di dimensioni servono, o sei in filiera e quindi sei un fornitore, oppure di più ti puoi anche mettere in rete, voglio dire, con in rete, certo. In ogni caso bisogna fare investimenti in innovazione, in reti di vendita, in servizi a clientela, e questo chiede una maggiore capitalizzazione, una maggiore patrimonializzazione per poter raccogliere poi sui mercati risorse finanziarie per andare in quella direzione. Chi l'ha fatto ha avuto grande successo, ovviamente. Questo gli ha permesso di navigare lungo la crisi in queste acque molto agitate e avanzare, non solo galleggiare. Certo, le dimensioni sono importanti, non vuol dire questo come per forza debba cedere l'attività, arrivare a una fusione, fare entrare un socio. Queste sono alcune delle strade possibili. Quando parlavo della pipeline del valore, come la chiama chi ha studiato, cioè la filiera dove si genera valore, se tu sei ben posizionato, diciamo spesso che la differenza tra piccolo e nano è che in un caso vanno bene le tue dimensioni, nell'altro caso sei patologico, anche se magari hai un fatturato interessante, ma sei piccolo rispetto ai tuoi nano rispetto ai tuoi concorrenti. E esiste appunto la filiera del valore, esistono anche le reti, per cui tu senza fonderti o far entrare un socio forte puoi anche essere in rete. L'importante è non pensare di farcela da soli quando non hai le dimensioni corrette per farlo, perché in questi mercati, ha ragione Luca Polazzi, bisogna esserci per capire anche dove vanno i loro gusti e le loro scelte. Ed è importante quello che ricordavi, cioè dalla globalizzazione spinta, per cui la Cina comprava a decine di migliaia di distanza, importava, esportava, i mercati stanno un po' tornando a regionalizzarsi, cioè non dico a chiudersi, ma avere scambi di medio raggio, non solo di lunghissimo raggio. Mettiamola così. Qualche anticipazione per chiudere, Luca, sui dati sul PIL nel secondo trimestre, dopo la delusione, per non dire botta, del primo trimestre, dove invece che un segno più ci siamo ribeccati un segno meno. Ma, l'andamento della produzione industriale fondamentalmente per ora disegna ancora un profilo piatto, quindi non dà un grande contributo. Le costruzioni, cioè, faremo un altro zero? Ma diciamo che siamo più o meno nell'intorno lì, sì. Una buona notizia me la vuoi dare? Non so, domani ci sarà bel tempo, non so, c'è uno scollamento molto forte fra indicatori di fiducia che sono in netto miglioramento ormai da mesi, sia delle imprese manifatturiere che dei consumatori, che delle imprese delle vendite del taglio, perfino quelle. E invece diciamo quelli che sono i dati duri, nel senso veri, basta vedere anche l'immatricolazione di auto l'ultimo mese, spiragli di luce si vedono negli investimenti, dove effettivamente c'è un'acquisizione di ordini dall'interno, quindi non solo per esportazioni, ma dall'interno di chi produce macchinari, però appunto noi aspettiamo con desiderio qualche segnale concreto di... No, hai ragione, perché anche noi raccontiamo i dati ISTAT sulla fiducia di consumatori e imprese, sempre in aumento, a record addirittura dal 2010, e poi però non li vediamo tradotti in numeri, in volumi, in comportamenti di spesa. Uno è fiducioso, ma intanto aspetta, sembra un po' allarmiamoci e partite di una volta. Grazie a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria. Il traffico, poi la borsa, gli arresti per il Mose, a questo punto più Mosè che Mose, visto quello che è successo, e poi invece il settore auto, visto che ieri non siamo riusciti a commentarlo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Mi ha fatto molto piacere che il Presidente del Consiglio, in più di un'uscita pubblica, abbia sottolineato l'importanza dell'industria per la nostra economia. Aggiungo, sulla base dei dati elaborati dal nostro centro studi, che senza industria verrebbero meno la maggior parte dei servizi a maggior valore aggiunto, quelli che vivono della domanda dell'industria e che grazie al confronto con l'industria si evolvono e crescono. Vale certamente anche il contrario. Un'industria competitiva oggi ha bisogno di servizi sempre più efficienti. Dal punto di vista della politica economica, le parole e gli annunci fatti dal Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi alla nostra Assemblea mi hanno rassicurato, affermando finalmente il giusto approccio da tanto tempo chiesto da Confindustria. Un approccio pro-industria, pro-impresa, indispensabile per assecondare e sfruttare appieno il profondo rinnovamento che è in corso nel nostro tessuto imprenditoriale. Questa era la parte, diciamo, più politica, più riferita al governo, da parte del Presidente di Confindustria Squinzi, che appunto ha apprezzato l'approccio del Ministro Guidi, che conosce bene il mondo dell'industria, è stato Presidente dei Giovani Industriali, Vicepresidente di Confindustria, e anche del Premier Matteo Renzi. Adesso andiamo alla borsa, vedo molti messaggi su questo. Attenzione, il problema non è che ci siamo dedicati solo al cibo e al vino, questo è importantissimo perché ci sono dei punti di forza nel Made in Italy fondamentali che riguardano il cibo, il vino, il vivere italiano, il design, la moda, il legno arredo, non sono cose piccole, però è anche vero che un paese non può andare avanti solo, diciamo, di produzione di fascia alta, noi dobbiamo far massa anche e quindi manca un pezzo della nostra produzione manifatturiera. Ecco perché quando sento parlare di dobbiamo concentrarci sulla nicchia, mi viene in mente che chi lo dice è un po' nicchione, perché insomma la nicchia è fondamentale, chilometro zero sarà fondamentale, il prodotto altissimo valore aggiunto è fondamentale, però poi non è che con questo facciamo la seconda industria manifatturiera d'Europa, occorre anche il resto, benissimo le produzioni di qualità, benissimo il vino, l'agroalimentare, il mobilio arredo, ma anche il resto. Vabbè, Chiara Di Cristoforo, Radio Colle, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Un'altra giornata, diciamo, senza infamia e senza gloria, meno 0,16% in borsa, meno 0,26 a Londra, invariata l'America, più 0,07 Francoforte e meno 0,06 Parigi. Tutte le banche in attesa della Banca Centrale Europea di domani, quindi così l'archiviamo. Invece Telecom più 2,60, Finmeccanica più 3,40. Sì, allora, Finmeccanica è stato un balzo proprio dell'ultima ora di contrattazione. Sono arrivate delle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Selex, Fabrizio Giulianini. Selex è una controllata di Finmeccanica che ha detto di attendersi a breve delle novità su un contratto che si chiama Tetra, che è in discussione con il Ministero dell'Interno e che riguarda la rete di comunicazioni mobili protetta per le forze di sicurezza, e questo ha fatto scattare gli acquisti. Telecom invece, che citavi, più 2,63%, era il rialzo sin dalle prime battute. Qui ci sono diversi fattori, innanzitutto ancora l'attesa di novità sull'assetto azionario in vista della scadenza del patto telco, ricordiamo che la finestra per la disdetta è dal 15 al 30 giugno, ci si aspetta che ci sia effettivamente questa disdetta e si attendono le mosse di Telefonica, perché diventerà primo socio con il 15%, quindi potrà o cercare nuovi azionisti oppure dismettere delle attività, per esempio quelle brasiliane, per non incorrere nelle sanzioni antitrust. Sono arrivati però anche rumors di mercato che parlano di una ripresa dei contatti tra Hutchison OnePoint e Vimpelcom per la fusione tra Trenitalia e Wind, e questo ha impattato sul titolo Telecom. Altro titolo andare bene oggi, o meglio andava bene, poi ha ritracciato e chiude... Dov'è finita? Eccolo qua, meno 0,56 media, si è arrivata a perdere l'1,50%, sì. Lì sempre la Spagna su Digital Plus. Fiat, ne parliamo fra circa 10 minuti, delle immatricolazioni, meno 1,80%, il dato ieri era peggiore alla media italiana, comunque in calo anche quella italiana. Unipulsai meno 1,90%, World Duty Free quasi il 3%, poi ha ritracciato meno 2,10%, World Duty Free. Sì, qui a pesare la notizia dell'acquisizione da parte della concorrente elvetica Dufree di Nuance, una società sempre nel settore dei duty free. Questa è negativa per World Duty Free per due motivi. Intanto perché la concorrente elvetica si amplia e si rafforza praticamente su tutti i mercati europeo, statunitense e sui mercati asiatici. E poi è la prima azienda, diciamo, si rafforza soprattutto nello scalo di Heathrow, che è uno scalo fondamentale per questo tipo di business. Sì. In più si era parlato, cioè si era ipotizzato che Dufree potesse addirittura comprare World Duty Free o che Nuance potesse essere un possibile partner per un'aggregazione, quindi l'appeal speculativo sul titolo è un po' calato con questa notizia. Ancora, oggi Staraccia ha confermato, mi riferisco a lei, nella riduzione del debito, più Enel alla fine è andata abbastanza in controtendenza, più 0,43%. Su G-Tech invece ci sono novità che arrivano dal Sole 24 Ore, meno 0,70. Sì, oggi il Sole ha ripreso dei rumors di mercato secondo i quali il consorzio guidato da Turkcell, che è l'operatore di telefonia mobile turco, sarebbe il favorito nella gara che si svolge proprio in Turchia per la gestione delle lotterie. Si tratta di una gara di cui non si hanno ancora i dettagli economici, ma che è una gara molto grossa, molto importante, e questo oggi è un po' impattato sul titolo. E poi bene anche Saipem più 2,30, Azimut più 2, Mediobanca più 0,90, Pop Milano più 0,60, Tenaris mezzo punto percentuale e Moncler più 0,30. Fronte opposto invece Autogrill meno 1,30, Iux meno 1,30, Eni meno 1,30, Exor meno 1,1, Buzzi Unice meno 0,90, come CNH Industrial e Ubibanca e Salvatore Ferragamo. Migliori, peggiori in assoluto: Ceramiche Ricchetti più 20%, Irce più 14%, Invest più 5,50%, Credito Valtellinese più 4,20%, peggiori RCS Media Group sul risparmio meno 4% e Metorios Capital meno 3,60%. Grazie Claudio Cristoforo, Radio Colli sulle 24 ore, il GR24 e poi il Mose. Minuti, seconda parte di Focus Economia. Allora, il Mose è costato 5 miliardi, chiedo scusa per il refuso che c'è stato nel nostro GR, chiaramente sono 5 miliardi e non 5 milioni, e ci mancherebbe, fosse stato 5 milioni. Ma perché parliamo del Mose, se qualcuno ancora non lo sa? Perché oggi sul Mose è successo di tutto, scandalo in laguna, più che Mose, ho detto io con una battuta, bisognerebbe chiamarlo Mosè. Viste i capi di accusa, arrestato il sindaco del PD Giorgio Ossoni, ai domiciliari l'assessore regionale Kiss e altre 33 persone, tra cui ex presidente del magistrato alle acque. Ipotesi di reato a vario titolo, corruzione, concussione, riciclaggio, presunti fondi neri accumulati dagli allora vertici di una delle aziende operanti nella costruzione del sistema che serve, lo ricordo, per difendere Venezia dalle acque alte, e anche una richiesta di arresto per Giancarlo Galan, ex governatore del Veneto, ex ministro con Berlusconi e ora deputato. Nello specifico, il sindaco di Venezia Orsoni è accusato di finanziamento illecito relativo alla sua campagna elettorale per le comunali 2010. E poi oggi in carcere 25 persone, altre 10 ai domiciliari. La Guardia di Finanza ha compiuto anche 100 perquisizioni, sequestrato beni per 40 milioni di euro. Ricordo che l'inchiesta era in corso dal 2008 e la terza fase di questa inchiesta è appunto il contatto, diciamo così, i rapporti con la politica. L'accusa o l'ipotesi, diciamo, complessiva riguarda una triangolazione di denaro attraverso false fatturazioni maggiorate per circa 25 milioni di euro che, secondo l'accusa, avrebbe portato alla luce un sistema illecito ben radicato. Il ministro Lupi: accertare le responsabilità, l'opera va finita, sono pronto a riferire al Parlamento. È un periodo che Lupi si occupa più di inchieste della magistratura che di infrastrutture in senso stretto. E poi i PM dicono in conferenza stampa: attenzione, il sistema MOSE è un fiore all'occhiello per il paese, sarà un'opera che andrà avanti nonostante quanto accaduto, è un dovere per i cittadini. Indagato anche l'ex consigliere del ministro Tremonti, Marco Milanese, prese secondo l'accusa 500.000 euro dal presidente del consorzio Venezia Nuova, Mazzacurati, anche lui indagato. E poi Mazzacurati, ripeto, è indagato dal luglio scorso. Qualcuno mi dice: ma come, lei è contro il MOSE a favore della TAV? Guardi, ormai il MOSE è all'85% di opera, di avanzamento dell'opera, quindi finiamolo sto MOSE. Non ho detto questo, ho detto, si è ricordata una famosa puntata, sì, confermo di essere a favore della TAV, visto che è un accordo internazionale sul Corridoio 5. Ma per quello che riguarda il MOSE, l'obiezione a suo tempo fu: costando quell'opera 5 miliardi, ricordo benissimo le obiezioni dell'allora sindaco Cacciari, diceva insomma, con quei soldi potremmo ripulire tutti i canali di Venezia, dragare i canali, come faceva la Repubblica Serenissima, rimettere a posto le fondamenta, perché il problema dell'acqua alta, poi possiamo fare un'intera puntata se vogliamo, ripeto, qui parla una persona che per metà è veneziana. Il problema dell'acqua alta è anche dovuto alla mancata pulizia dei canali. Nei canali si sedimentano, diciamo, rifiuti organici e non solo, e chiaramente questo porta minor flusso dentro i canali di Venezia, e quindi la pulizia dei canali, che era un'opera a cui stava attentissima la Repubblica Serenissima, non a caso il magistrato alle acque, le pene erano tremende per chi avesse compiuto violazioni sul sistema dei canali a Venezia, beh, forse era più importante, la priorità era quella. Ma è chiaro, e questo, su questo vorrei interrogare anche la collega del Sole 24 Ore, Barbara Ganz. Buonasera Barbara. Buonasera a voi. E qui, insomma, in questo paese, bisogna dirla tutta, quando c'è una grande opera, i rischi sono grandissimi. Perché? Lo dico perché è chiaro che tu, quando hai in ballo 5 miliardi, erano meno all'inizio, poi sono lievitati, 5 miliardi sono 78 paratie mobili che dovrebbero alzarsi fino a un certo livello, perché se l'acqua è troppo alta non si alza neanche le paratie, non serve a nulla il MOSE. Ma detto questo, non è che io sia contro il MOSE, dicevo solo che da un punto di vista prioritario, invece che pensare alle grandi opere, ce le ricordiamo le grandi opere, ponte sullo stretto, che ci è costato decine di milioni di euro, anzi più di un centinaio, solo di progettazione e fattibilità, ringraziano gli studi e quant'altro. Le grandi opere in questo paese, insomma, accendono grandi appetiti, mentre le piccole opere sono utili sul territorio, hanno ricaduto anche un impatto per il ciclo economico molto più alto e fanno meno notizia, fanno guadagnare meno consenso politico. Tutto che muovono meno soldi, ma magari sono più utili. Detto ciò, ormai il MOSE c'è. Spiegami questa terza fase, Barbara Ganz, perché ricordavo che le indagini, le inchieste e le accuse vanno avanti da tempo. Prego. Sì, vanno avanti da tempo, ma in realtà questa mattina in procura spiegavano che si tratta, insomma, di passaggi di somme di denaro accertate anche in tempi ancora recenti, quindi non era cambiato poi molto. E parlavano del fatto appunto che rispetto alla vecchia Tangentopoli, oggi c'erano giornalisti che nemmeno se la ricordavano, che avevano 7 anni all'epoca, raccontavano. E praticamente il meccanismo è lo stesso, un po' più sofisticato, hanno detto. alcune persone anche sono le stesse, per cui sostanzialmente è una macchina che non si era, non l'hanno, guarda, questa mattina erano blindatissimi dal punto di vista dei nomi e delle... Beh, non erano gli unici a essere blindati, fammi fare una battuta perché mi sembra che... Allora, però attenzione, l'indagine dura da 3 anni, è iniziata a febbraio del 2013 con l'arresto del presidente della Mantovani Costruzioni per Giorgio Baita. Arriveremo a Baita, scriveva Mario Rigoni Stern, qua invece Baita che è arrivato in carcere. Allora, l'accusa era di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale. Ancora in manette, oltre a Baita, anche Claudia Minutillo, l'ex segretaria personale dell'ex presidente del Veneto Giorgio Galan, che Giancarlo Galan, che oggi invece ha beccato la richiesta di arresto, è deputato. E la cifra sarebbe stata stimata allora, cioè più di un anno fa, in 20 milioni di euro di evasione fiscale. Poi il 12 luglio del 2013 avviene la seconda ondata d'arresti, che coinvolge tra gli altri il padre del Mose, Giovanni Mazzacurati, già presidente del Consorzio Venezia Nuova. Si era dimesso dalla carica 2 settimane prima, l'accusa era turbativa d'asta per gli appalti riguardanti il porto di Venezia. Le fiamme gialle continuano a seguire la pista dei fondi neri. E questa è un po' tutta l'architrave dell'accusa, cioè, se ho ben capito, i fondi neri venivano accumulati facendo sovrafatturazione, facendo pagare di più la materia prima per costruire il Mose? Anche inventando false consulenze con false società, con tutta una serie di operazioni prevalentemente all'estero, a San Marino, in Svizzera, per cui si creava un bacino di soldi che poi finivano a soggetti politici, loro parlano di livello comunale fino a quello maggiore, insomma. Creavano un fondo di tangenti per cui loro dicevano doppio danno, diciamo, per il cittadino, il fatto che non erano stati pagati di tasse e il fatto che servivano a finanziare la corruzione. Ecco, e questi fondi neri avvenivano, tu dicevi, con consulenze, ma anche sovrafatturando. Sì, prego. Esatto. Sì, anche sovrafatturando, oppure creando giri di società, pagando più volte la stessa prestazione, tutta una serie di meccanismi che avevano questo fine. Ecco, a questo punto l'opera, però, dicevo io, è all'85%, verrà conclusa? Perché, guarda, i prezzi sono lievitati nel frattempo, stranamente con questo giro. Adesso, come sai, si comincia anche a vedere, hanno installato i primi cassoni, insomma è veramente nelle fasi conclusive. E quello che dicevano oggi sia in procura sia il Consorzio Venezia Nuova, gli stessi industriali del Veneto, è di scindere, come dire, l'illegalità legata alle grandi opere col fatto che vanno realizzate. Sì, che è un po' la logica che si è applicata per l'Expo, no? Cioè cercare di non bloccare l'intero Expo perché ci sono una banda di ladri o presunti ladri. Sì, il paragone è stato quello. Insomma, questo mi sembra anche... Uno poteva essere contrario al Mose inizialmente, ma ormai che hai speso 5 miliardi per farlo, e chiudiamolo sto Mose, se no resta lì con le paratie a mezz'aria. Detto questo, ho visto alcune repliche, il legale di Rossoni dice che le accuse sono poco credibili, mentre... Dunque, ci sarebbe stato addirittura uno stipendio da 300-400 mila euro all'anno, arrivato a 600 mila euro, che avrebbe percepito il magistrato della Corte dei Conti, Vittorio Giuseppone, indagato per aver compiuto atti contrari ai suoi doveri, lo scrive il GIP Scaramuzza. Quindi non ci sono solo, diciamo, imprenditori, politici, c'è anche un pezzo di magistratura e di Guardia di Finanza. E anche di Guardia di Finanza, assolutamente. Tant'è vero che in procura dicevano che è stata un'indagine che ha dovuto resistere a molti tentativi di interferenze per poter proseguire. Non avevamo detto dubbi. Chiaramente. Ecco, su questo il ruolo di Galan quale sarebbe stato invece? Galan avrebbe ricevuto anche lui sostanzialmente uno stipendio più dei soldi per ristrutturare prima la casa di Cinto Euganeo, poi anche la Barchessa nel 2011. E anche in questo caso si parlava sempre di dazioni di denaro non legate proprio a un singolo fatto specifico, ma una generica disponibilità a collaborare, quasi uno stipendio regolare. Ecco, e poi c'è appunto questa parte, e lì sarebbero i rapporti tra Mazzacurati, presidente allora del Consorzio Venezia Nuova tra il 2005 e il 2011, e l'allora presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan. Addirittura la magistratura ipotizza uno stipendio vero e proprio da 1 milione. Sì. Parlano dello stipendio proprio per questo, perché non era il singolo atto, era addirittura lo stipendio, dalle tangenti allo stipendio. Vabbè. Va bene, si fa per dire, va bene. No, allora suggerisce, in questo paese vige la presunzione di innocenza, quindi vedremo come andrà a finire questa inchiesta, come anche quella dell'Expo. Detto ciò, se dovesse essere dimostrato che Galan percepiva addirittura quasi uno stipendio fisso da 1 milione di euro, che erano corrotti i finanzieri, il magistrato della Corte dei Conti si beccava 400-500 mila euro, insomma una vera così cupola della Laguna sul Mose. Mi scrivono ascoltatori, posso essere anche abbastanza d'accordo, invece che mandarli ai domiciliari o diamo pene sostitutive, mandiamoli a lavorare al Mose, ma perché no? Magari anche a dragare i canali, che servirebbe. Non voglio fare populismo. Potrebbe essere un'idea, no? Serve dragare i canali, e siccome i soldi sono andati tutti quanti nel Mose, bisogna rifare le fondamenta di Venezia, tu lo sai meglio di me, bisogna pulire i canali perché le opere sono a rilento. Ecco, utilizziamo la manodopera a costo zero, così ripagano un po' la collettività di quello che eventualmente fosse dimostrato hanno rubato. Grazie alla collega Barbara Ganz. Il traffico. La Fiat ha fatto il meglio che poteva fare considerando i problemi che aveva, quindi non ha chiuso niente e ha aspettato che Bruxelles si muovesse, e Bruxelles non l'ha fatto. E quindi, considerando l'opportunità che ci si è aperta per noi in America, abbiamo sfruttato quella capacità americana, la robustezza dei risultati finanziari americani, per far ripartire il sistema italiano utilizzando un marchio che è rimasto storicamente del gruppo, è stato abusato come l'Alfa, e prendendosi l'impegno a far ripartire la rete industriale italiana su quella base. Discorso molto molto difficile da fare, perché se la Chrysler andava male la FIA sarebbe stata in pessime acque, posso dire adesso. Cioè, il piano presentato il 6 maggio dipende in gran parte dalla robustezza delle attività americane. Io ho bisogno della cassa americana per finanziare le attività europee. Senza peli sulla lingua, abbiamo deciso di confermare nel piano che va avanti fino al 2018 è quello di far ripartire l'Alfa Romeo finalmente con un vero marchio premium dalla famiglia Fiat. L'impegno che abbiamo preso è quello di investire la somma di 5 miliardi tra adesso e il 2018 sviluppando un'architettura e una serie di modelli e una serie di motori che vengono disegnati e sviluppati semplicemente per l'Alfa Romeo, che sono completamente al di fuori della tradizione storica della Fiat. Lo sviluppo dell'Alfa Romeo in questo periodo di 5 anni verrà completamente focalizzato sul sistema industriale italiano, quindi motori prodotti in Italia, architetture prodotte in Italia, macchine prodotte in Italia, e che quando finiremo questo processo di rilancio dell'Alfa Romeo in effetti andremo a rioccupare tutta la forza di operai che abbiamo nel sistema della Fiat, e che non avremo eccedenze alla fine del piano. Sono stato venerdì a vedere l'ultimo muletto della nuova incarnazione dell'Alfa, che spero di poter presentare l'anno prossimo. Posso dire, dalla valutazione che sarà fatta, perlomeno anche dalla guida di questo prototipo, siamo nella direzione giusta. Durante il terzo trimestre dell'anno prossimo vedremo la prima apparizione di questa strategia, che ha richiesto l'intervento di più di 200 ingegneri, saliranno a 600 entro la fine dell'anno, che stanno sviluppando in segreto. Allora, così Marchionne da Trento ha detto: fra pochi anni attendetevi che per ogni modello BMW ve ne sarà uno a fargli concorrenza dell'Alfa Romeo. Questo nel presentare il libro Made in Torino, Fiat Chrysler Automobiles, il futuro dell'industria. Made in Torino col punto di domanda, l'autore Giorgio Barba Navaretti, che insegna economia e politica alla Statale di Milano. Buonasera. Buonasera. Allora, purtroppo il Mose ci ha portato via molto tempo, domani la riavremo ospite perché voglio fare un ragionamento anche sul settore dell'industria e dell'acciaio, visto che lei sta partecipando oggi al convegno Industria Acciaio 2030, sì. Dove un tema che si tiene a Brescia e che terminerà come analisi il progetto con la sesta edizione di Made in Steel. Però mi dica una cosa, poi ci risentiamo domani, Barbara Navaretti, perché il tema è molto delicato. Marchionne a Trento l'ha convinta? Ma Marchionne mi ha convinto, ma soprattutto mi ha convinto l'analisi molto approfondita che con il mio coautore Gianmarco Ottaviano abbiamo fatto nel corso del nostro studio, appunto pubblicato dal Mulino, che è stato quello di capire che senso aveva, da un punto di vista anche delle attività italiane, la trasformazione in chiave globale delle attività della Fiat. Ed effettivamente il piano che lui oggi propone per l'Italia è un piano che da un lato certamente è molto rischioso, ma dall'altra ha delle fondamenta di razionalità e si inserisce in quello che è il piano globale della Fiat in modo coerente e ragionevole. Quindi da questo punto di vista mi ha senz'altro convinto. Ecco, fermo restando che poi ne parleremo anche domani. E come si coniuga questo grande progetto in cui lui dice faccio i soldi in America per mantenere le attività italiane ma devo vendere fuori dall'Europa perché l'Europa è un mercato piatto, con il dato di ieri in cui mercato Italia meno 3,8 vado a memoria, mercato mentre Fiat meno 11%. Beh, cioè, i modelli mancano per ora, no? Sicuramente in questo momento la Fiat non è in grado di competere sul mercato europeo perché non ha i modelli. Diciamo, quello che lui propone oggi è una strategia di revisione radicale dei modelli che però non è ancora stata applicata sui mercati italiani, quindi qui poi sul mercato europeo. Quindi questo è il punto di grosso rischio. Dobbiamo vedere come riuscirà a farlo. Quello che è certo però è che propone una produzione di veicoli che non verranno venduti solo in Europa ma potranno essere anche esportati in altri paesi, compresa l'America, e qui può fare leva sull'enorme rete di distribuzione per esempio di Chrysler negli Stati Uniti. Quindi questa cosa è credibile. Senza Chrysler non sarebbe stato possibile fare dell'Europa una piattaforma per l'export. Avremmo prodotto automobili solo per il mercato europeo e in effetti il mercato europeo ancora stagna. Si riprenderà certamente, ma per ora stagna. Stagna, e noi domani con lei, professor Babanaretti, capiremo anche alcuni altri elementi. La triangolazione a me è abbastanza chiara, fare cassa, diciamo così, in America per mantenere la Fiat, per riuscire poi con questo binomio a esportare fuori dall'Europa. Ci risentiamo domani con Babanaretti, che appunto insegna economia politica all'Università degli Studi di Milano. A chi continua a chiedermi del MOSE, io non voglio parlare di Galan, della sua villa, beh, non lo so, la villa se la può fare anche perché ha un'eredità importante. So benissimo che a Venezia lo chiamavano Galan Grande. Ritengo, non è populismo, che invece che se dovessero essere condannati i lavori socialmente utili, che a Venezia ce ne sono tanti, pulire i canali, sarebbero più utili socialmente della galera che costa anche ai contribuenti italiani. Fategli fare i lavori socialmente utili, fategli fare il controllo del MOSE, date una lezione per i futuri corruttori, ammesso che venisse confermata questa vicenda in cui addirittura magistrati della Corte dei Conti venivano stipendiati, Galan stipendiato, la Guardia di Finanza di mezzo. Ma Mosè ci vorrebbe. A domani dalle 17 in poi un'altra puntata di Focus Economia. Intanto buona serata da Sebastiano Brisoni. Radio 24. La passione si sente.